A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Italia tra le grandi del mondo, questo ci dice l'Olimpiade. È stata una meravigliosa Olimpiade, oggi la rivivremo con le voci, le tante voci dei nostri azzurri, di coloro che hanno conquistato una medaglia, e sentiremo anche chi ha vissuto queste Olimpiadi o da Milano oppure da Londra. Tante Olimpiadi oggi, non tralasciamo il calcio perché continuano le polemiche legate a Juventus Parma, legate alla partita che ha dato la Supercoppa alla Juventus, Juventus Napoli naturalmente, e poi le parole di Zeman che tirano in ballo di nuovo la Juventus, in particolare con Conte. Dice: chi è squalificato così tanti mesi non può allenare. 800 24 00 24, che Olimpiadi sono state per voi allora? E dove e come le avete vissute? E poi i vostri messaggi SMS 349-238-6666, naturalmente, per mettersi in contatto con noi. E allora vi avevo detto tante voci, andiamo a risentirne qualcuna partendo dalle nostre medaglie d'oro, dalle medaglie d'oro azzurre, e partendo da quella del tiro con l'arco con Galeazzo, Nespoli e Frangilli. Sì, una grandissima soddisfazione, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti. Ma sicuramente, come dice Marco, è un sogno che diventa realtà. Ci siamo impegnati molto, abbiamo faticato e giustamente siamo stati ricompensati. È una medaglia cercatissima da parte mia da 16 anni dalle Olimpiadi di Atlanta, e finalmente è un sogno che si realizza. E ringrazio anche i miei compagni di squadra, che 2 anni che soffriamo in silenzio per cercare questa medaglia, è arrivata. Una medaglia che ci ha dato molta emozione è stata anche quella di Molmenti, perché Daniele Molmenti nella canoa slalom K1 è riuscito a raggiungere l'oro. Anche le sue parole al microfono di Dario Ricci. L'ho detto in tante interviste che noi purtroppo siamo considerati sport minori dai più per la nostra poca visibilità, però mi pare che ai risultati non siamo per niente minori. Anzi, io quest'anno l'Europeo l'ho vinto, l'Italia del calcio no, io le Olimpiadi anche queste l'ho vinte e l'Italia neanche c'era, quindi voglio dire, se guardiamo quello e i risultati, insomma, ne abbiamo molti di più noi. E qui ha un po' di polemica per Molmenti legata al calcio che non era presente alle Olimpiadi, un altro dei grandi sport di squadra che mancavano per l'Italia dalle Olimpiadi. Polemica naturalmente senza grandi toni, senza i toni esasperati che vivremo più tardi, parlando invece di calcio. E passiamo alla scherma che ci ha dato davvero tante e grandi soddisfazioni, in particolare con le ragazze. E allora sentiamo Elisa Di Francesca, che ha vinto 2 ori naturalmente, sia nell'individuale che a squadra. No, è stato più difficile il doppio oro, anche se sono partita con l'intento di vincere. Siamo arrivati due giorni prima della gara, il giorno prima della cerimonia d'apertura, abbiamo fatto la gara individuale, abbiamo fatto la gara a squadre e poi siamo tornati. Quindi il tempo di vincere 2 ori e di tornare a casa e festeggiare con tutte le persone che mi vogliono bene, non fanno altro che fermarmi e farmi i complimenti, a me fa sempre piacere. Altre nostre rappresentanti, in particolare dell'Arrigo, della Vezzali, ma passiamo a un'altra medaglia d'oro sempre per la scherma, questa volta che è venuta dagli uomini, sempre Fioretto a squadre con Avola, Spromonte, Baldini e Cassarà. È così, non ci aspettavamo una resistenza così ardua da parte dei giapponesi, siamo stati lì a combattere ma poi sono riusciti a mettere quella stoccata che nel punteggio c'è anche la mia. Che dire, ancora non ci crediamo. Ma sono contentissimo, ragazzi oggi hanno tirato benissimo, come ha detto Giorgio, non ci aspettavamo che la squadra giapponese fosse veramente così, così insistente. Ah, che dire, sono emozionatissimo, siamo contentissimi, era l'obiettivo che inseguivo, che inseguivamo da tanto, e è bello. E sì, io non lo guardavo, no, perché non pensavo che fosse in grado di chiudere, ma perché da stamattina che portava fortuna questo gesto scaramantico. Il tiro sia il tiro con l'arco, naturalmente, sia il tiro a volo, ci hanno dato molte soddisfazioni, in particolare una, perché è venuta da una ragazza molto giovane, a 20 anni, viene da una delle zone più colpite in questo periodo in Italia, da quelle zone che sono state colpite dal terremoto. Proprio a tutte le persone che hanno vissuto quei momenti così difficili, così drammatici, Jessica Rossi ha voluto dedicare il suo splendido oro, anche con record del mondo nel tiro a volo fossa olimpica donne. Jessica Rossi. È una sensazione bellissima, è il sogno di tanti anni di lavoro e finalmente l'ho portato a casa. Quasi, le qualificazioni sono state perfette, la finale un po' meno, però diciamo che è perfetta. Io l'anno scorso avevo deciso che volevo vincere questa medaglia per fare questo record di vittorie e quindi non posso che essere felice. Mi sono isolata e ho cercato di rimanere concentrata solo su quello che dovevo fare io, il gesto tecnico, solo su cercare di vedere il piattello e basta. Jessica Rossi, ma anche un altro giovane, 24 anni, tra l'altro che è emigrato proprio per sport, perché è andato a frequentare l'università negli Stati Uniti con una borsa di studio legata proprio al tiro. Stiamo parlando di Nicolò Campriani, ha vinto due medaglie, in particolare quell'oro splendido, straordinario, nella carabina 50 metri, tre posizioni. Nicolò Campriani che era il grande favorito della vigilia, campione del mondo, eppure alcune volte partire da favorito non dà alla gara più semplice, e in particolare in quegli sport dove ci vuole tanta concentrazione, ma lui l'ha vissuta anche con non solo con l'attenzione e la riflessione che vuole, ma anche con il sorriso che ci ha imparato a mostrare nelle interviste dopo le sue splendide prestazioni. La mia fortuna anche è che, nonostante tutte le previsioni, io non sono andato lì con le medaglie in testa. Io volevo fare il mio gesto tecnico per 60 volte e costruire il tutto un colpo alla volta, poi alla fine si vedeva la classifica e ci credevo davvero, ecco, non è una frase a effetto che dico ora, e quella è stata la mia fortuna. Poi se qualcuno tirava meglio di me, nel senso, non era il vincitore, ma il mio scopo era quello di non avere impianti. Altre medaglie poi con Carlo Molfetta nel taekwondo, lì è stata una medaglia davvero molto emozionante. Abbiamo imparato a vivere queste Olimpiadi in televisione, come le ha mostrate magnificamente, bisogna dire, Sky e poi anche Rai, che ha mostrato sostanzialmente tutte le medaglie italiane, anche riuscendo a muoversi, a saltabeccare fra una medaglia e l'altra quando erano in contemporanea. Davvero sono state Olimpiadi televiste, però le abbiamo anche lette, e molto bene, devo dire, sulla Gazzetta dello Sport, e quindi mi fa molto piacere avere qui Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, grande appassionato di sport olimpici e non solo di calcio, come succede spesso in Italia. Franco, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'apprezzamento. No, ma davvero, io credo che il lavoro che avete fatto su queste Olimpiadi sia stato straordinario. Come le avete seguite, devo dire, forse anche inaspettato da un certo punto di vista. Tu sai, Franco, che c'è un gruppo su Facebook che si chiama Leggo la Gazzetta alla Rovescia, che è di tutti quei grandi appassionati che non sono appassionati solo di calcio, come ho detto, perché non è che si può essere non appassionati di calcio, che è uno sport meraviglioso, però sono appassionati anche di tutti gli altri che leggono la Gazzetta alla Rovescia. Bene, molto spesso su questo gruppo, che poi fra l'altro è stato fondato da Marco Del Checco, uno dei manager sportivi italiani più importanti, fra l'altro anche di Federica Pellegrini, non ha avuto bisogno di leggere la Gazzetta alla Rovescia in questo periodo, quindi devo dire, grandissimo lavoro, Franco. Vi ringrazio, io sono sempre stato contrario alle divisioni, agli steccati fra i vari sport che hanno tutti la stessa dignità, guai a costituire delle differenziazioni artificiose, in particolare in questo caso contro il nostro sport nazionale che è il calcio non è soltanto la cima di quella piramide, ma sono tanti, ma sono le centinaia di migliaia, forse milioni di appassionati che nelle serate invernali giocano, si allenano, e quindi tutto va guardato con la stessa passione, lo stesso entusiasmo. 348 349-238-6666 per i vostri sms, 800-24-0024 il nostro numero verde. Franco, allora, che Olimpiadi sono state? Sono state le Olimpiadi che ti aspettavi? Dal punto di vista italiano il voto è un 7, sarebbe stato qualche cosettina di più se non ci fosse stato l'enormità del caso Schwarzer, una Olimpiade che ha tenuto fuori dal contesto crisi, declino, pessimismo che purtroppo inquadra gran parte delle attività socio-economiche italiane, e quindi questo va dato merito ai dirigenti, agli atleti e ai tecnici della nostra delegazione. Naturalmente c'è chi fa meglio e anche molto meglio, e non solo chi ci precede nel medagliere, ma anche chi sta apparentemente dietro, dall'Australia all'Ungheria, dalla Nuova Zelanda al Canada, paesi molto spesso con una popolazione molto molto inferiore a quella italiana e che producono più o meno quanto noi o giù di lì o proporzionalmente molto di più, senza contare il caso Gran Bretagna, che invece è un paese del tutto paragonabile al nostro quanto a dimensioni, a popolazione e anche a tradizioni sportive, che passa, sentite un po', da una medaglia d'oro vinta non un secolo fa, ma da Atlanta 1996, cioè 16 anni fa, a 29 ori. E quindi questo è un modello che bisognerebbe affrettarsi a studiare e, se possibile, a imitare nel modo più veloce. Assolutamente, anche se forse uno di quegli ori magari poteva diventare, anzi doveva essere un argento, e l'abbiamo visto ieri con Camerele, ma queste sono piccole polemicucce di casa nostra, come al solito. Franco, ti chiedo solo 30 secondi di pausa perché c'è il traffico, poi andiamo a sentire le tue emozioni olimpiche. A tempo di sport. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Luca Cremonese in redazione, Fabio Cantadori in regia. Stiamo naturalmente parlando di Olimpiadi, riattraversando quei momenti belli ed emozionanti che abbiamo vissuto in questi giorni, e lo stiamo facendo in particolare con Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, il giornale che ci ha accompagnato davvero insieme alle tante immagini in queste Olimpiadi, e l'ho fatto davvero nella maniera migliore, l'abbiamo detto. Un sms che è arrivato al 349-238-6666, oltre al numero verde 800-24-00-24, che ci chiede qualcosa di più sul medagliere. L'abbiamo accennato alla Gran Bretagna, terza, ne ha parlato Franco Arturi poco fa, prima gli Stati Uniti, poi la Cina, quarta la Russia. Ci hanno preceduto poi la Corea del Sud, la Germania e la Francia, per quel che vale naturalmente parlare di medagliere, Franco. Ma domani do appuntamento agli appassionati e intanto agli ascoltatori di Radio 24 che devo dire segue a sua volta lo sport e ha seguito queste Olimpiadi con grande competenza, con grande puntualità e tempestività. Dicevo, proponiamo una classifica a punti che è qualcosa di più estesa del medagliere, cioè che conferisce un punteggio anche a chi non sale sul podio, non solo le famose medaglie di legno, ma fino all'ottavo classificato, e che dà ancora meglio il senso della vera e propria potenza sportiva dei vari paesi. Anche in quel contesto, vi anticipo, abbiamo una posizione analoga a quella del medagliere, che inviterei a... Questo è interessante, questo è interessante. Inviterei anche però a leggere in modo non convenzionale, cioè è più interessante vedere il numero complessivo delle medaglie, sempre per una valutazione complessiva delle capacità sportive di un paese. È chiaro che un paese come il Giappone, insomma, è solo in apparenza dietro di noi, e così come l'Australia, che è la vera Germania Est senza doping del mondo sportivo attuale, perché con una popolazione che non arriva a 20 milioni di abitanti, sì, è presente praticamente in tutto lo scenario olimpico in modo straordinario. Ci siamo difesi molto bene, però con delle aree, delle zone d'ombra o addirittura nere come la pece, parlo addirittura di chi non c'era, il basket, sì, ma il calcio. Parlo di un'atletica che si è affidata al solo 36enne splendido Donato per una salita sul podio. Parlo del nuoto, di cui avevamo concrete speranze, nel contesto del quale siamo fresca nobiltà, a partire da Sydney, che ci ha deluso quasi completamente, a parte la medaglia non in piscina della bravissima bolognese del nuoto in acque libere. Siamo affondati nel canottaggio, siamo persi per la pista e abbiamo smarrito la strada nel ciclismo, che era una delle nostre miniere d'oro. Siamo marginali purtroppo da anni nell'equitazione. Perfino la scherma, no, che è il nostro vanto di fronte al mondo, in cui siamo nettamente primi, abbiamo una situazione schizofrenica. Siamo mostruosi nel fioretto, però siamo bravi nella seconda arma, cioè nella sciabola, nella spada, ma siamo inesistenti nella sciabola. Insomma, abbiamo un bilancio paragonabile al glorioso formaggio svizzero, pieno di buchi che bisogna assolutamente colmare in previsione di Rio. Vi do un altro elemento di preoccupazione: l'età media dei nostri medagliati non è bassa, no, tranne pochissime eccezioni. 14 medagliati su 31 hanno da 30 anni in su, altri 9 ne hanno fra i 26 e i 29 anni. Voi pensate che a Rio a tutto questo bisogna aggiungere 4 anni. Le nostre splendide squadre a medaglia sono a fine corsa. La pallavolo aveva un'età media di 31,4 anni, era la squadra più anziana di questi giochi. La pallanuoto ha un'età media di 30 anni. Perfino le bravissime atlete della ginnastica ritmica, che apparentemente sono giovanissime, ma in realtà hanno concluso la, certo, loro attività agonistica, perché si ritireranno, perché a 25 anni quella disciplina si è nonne, cominceranno una nuova splendida, mi auguro, per loro vita. Quindi tutto questo richiede intanto consapevolezza, al di là della, direi anche scontata e giustificata, propaganda del giorno conclusivo. Consapevolezza e poi marcia in avanti, perché se lo sport italiano rimarrà solo in ordine a investimenti, programmazione, assistenza finanziaria, a Rio si divertiranno molto di più gli altri. Franco, ci sono stati tanti momenti belli ed emozionanti di questa Olimpiade. Quali sono stati i più belli per te, per quanto riguarda, cominciamo dagli azzurri, il momento azzurro che ti ha emozionato di più? Il bronzo di Valentina Vezzali, perché la sua capacità di trovare in quel momento lo stimolo per salire sul podio, lei che quel bronzo può considerare un fatto minore rispetto alla sua carriera, insomma, è stata una scossa elettrica di bella energia. E poi sul piano generale... Allora Franco, aspetta, visto che hai citato il bronzo della Vezzali, ecco la sua voce dopo quella medaglia di bronzo. A casa un bronzo lo porto, mi dispiace perché ci tenevo tantissimo a fare quello che nessuna donna aveva mai fatto nella storia della scherma. Beh, comunque la Vezzali non davvero ha fatto quello che nessuna donna ha fatto mai nella storia della scherma, quindi può stare tranquilla anche con questo bronzo, Naturalmente sì, è e sarà ricordata come una grande eroina. Assolutamente, vai pure avanti, scusa, ma visto che l'hai citata ci piaceva fartela anche ascoltare. Grazie, è stato un piacere per tutti, credo. Ho una piccola immagine davanti che per chi insomma non è più di primo pelo olimpico e anche di vita come me, ha dato qualcosa. E, subito dopo la gara del salto in alto femminile, la vincitrice splendida russa ha poi abbracciato l'americana che è arrivato dietro di lei, e fin qui tutto bene, ma avevano tutte e due sulle spalle, come si usa ormai in questo protocollo non ufficiale, ma che tutti gli atleti direi giustamente mettono in atto, avevano sulle spalle le rispettive bandiere nazionali, che nel loro abbraccio si sono mescolate, sì, no? se pensate che cosa hanno significato per 40 anni in termini di conflittualità queste due bandiere, e quello per me è stato un gran momento. Sì, bellissimo, hai fatto benissimo anche a ricordarlo, perché non è accaduto spesso in questi giorni, invece bellissima davvero questa immagine. Una delle ultime battaglie che ha fatto una persona che sta nel cuore sia a te, in particolare perché ci hai lavorato e ci hai vissuto per tantissimi anni e anche a me naturalmente, cioè Candido Cannavò, è stata quella in favore di Oscar Pistorius. E devo dire che se Candido fosse stato lì in quello stadio olimpico a ascoltare gli applausi di quegli 80.000, anche quando Oscar è arrivato in due occasioni, è arrivato ultimo nella sua gara, probabilmente non dico che potrebbe aver pensato vinto questa battaglia, però sarebbe stato sicuramente, si sarebbe commosso molto. Ma certamente. Abbiamo avuto occasione in queste Olimpiadi di citare in modo non forzato, ma del tutto spontaneo, tre volte Candido Cannavò nelle nostre cronache. L'ha fatto una volta il nostro direttore Andrea Monti, l'ha fatto Enrico Casperoni proprio, sì, in relazione a Pistorius. Mi sono permesso di farlo modestamente anch'io in relazione al caso Schwarzer, a cui ho chiesto un grande slancio di sincerità, come il nostro ex direttore fece nel momento in cui Pantani fu fermato per l'ematocrito alto. Ricordo quel tuo commento in prima pagina sulla Gazzetta. Il direttore invece ha citato un lungo brano dell'articolo di Cannavò quando, subito dopo la splendida medaglia d'argento della IDEM 4 anni fa, le scrisse, la incitò a fare quello che in quel momento con un atleta a quasi 44 anni sembrava una cosa assolutamente pazzesca, cioè a continuare. Beh, insomma, ha visto, come spesso è accaduto nella sua lunga, serena, felicissima vita, ha visto molto più a lungo di noi, e la stessa atleta naturalmente gliene ha dato atto. Franco, un sms che è arrivato a 349-238-6666 ci ricorda Josefa Idem, ed effettivamente tu hai citato Valentina Vezzali, ma anche quello che ha fatto la Idem pur con quel quinto posto. Qui davvero non stiamo parlando di medaglie, entra di diritto nella storia dello sport. Sì, guardate, il modo con il quale Josefa e il marito allenatore Guglielmo Guerrini sono capaci di sintetizzare la propria esperienza, il proprio percorso di vita, no? Rappresenta qualche cosa che dal punto di vista della comunicazione, del sentimento, sono veramente impagabili. Una grande testa che abbiamo avuto l'onore di ospitare come italiani per tanti anni nella spedizione olimpica. Aggiungerei, se parliamo di comunicazione, un nome non di atleta che ha gareggiato, ma che si è imposto all'attenzione generale come spalla tecnica dei giornalisti, e che è Stefano Baldini. Bravissimo, sì. Straordinario comunicatore, abbiamo imparato ad apprezzarlo credo che, spero che questo tesoro venga preservato per i mesi e gli anni a venire. Davvero, davvero bravo. Franco, ti faccio sentire queste parole. Tu l'hai già citato, sentite cosa ha detto Alex Schwarzer. Psicologicamente per me è stata una mazzata, perché ogni giorno dovevo dire le bugie a mia fidanzata. Ogni giorno mi sono alzato alle 2, alle 3, alle 4 del mattino, alle 5, guardando sull'orologio, perché sapevo che dalle 6 in poi può venire un controllo antidoping, dove dovevo dire a mia fidanzata di non aprire, perché sennò ero positivo. Lunedì 30 ha suonato a casa mia e io sapevo che era il controllo antidoping. Io non avevo più la forza di dire a mia madre non aprire, perché e dire, o se apri di che non ci sono, che io non ci sono, perché io lo potevo fare, perché forse chi sa la materia sa che in 18 mesi uno può saltare due controlli, Io non ho mai saltato uno. Però devo dire che non avevo più la forza e io non vedevo solo l'ora che finisce tutto. Insomma, sono parole anche per come l'ha dette, che naturalmente fanno pensare. Intanto è bastato il nome, perché sono già arrivati degli sms al 349-238-6666. Ale, dai, reagisci. Alex, un altro che dice tutti con Alex. Un altro legato alle parole che hai detto poco fa sulla Germania Est, ma legato un po' al doping. La Germania Est non era solo doping, anche un grande paese plurimedagliato. Va bene, questa però è stata una macchia pesante in questa Olimpiade, Franco. Sicuramente. Intanto mi consento una piccola battuta polemica. La Germania Est, certo che non è stato solo doping. L'atleta dopato non è che solo per il fatto di doparsi vince, poi dopo si deve allenare. Il fatto è che senza il doping di Stato la Germania Est non avrebbe avuto nulla di quello che ha avuto. Quindi è tutto purtroppo. La storia va riscritta completamente. Io sul caso Schwarzer intanto sono rispettoso del dramma umano, tuttavia vorrei un po' di equilibrio, fuggire il perdonismo e il pietismo. Siamo di fronte a un grande colpevole che deve avere una grande punizione e deve cominciare un percorso di espiazione. Ma rifugo assolutamente dalla persecuzione. Si tratta di una persona in chiarissima difficoltà che va aiutata, e mi auguro che il suo percorso di salvezza e forse anche di salute cominci con la verità, che la verità è l'unica cosa che possa guarire. Sì, è stata una cosa che ci ha segnato un po', io devo ammettere questo. Franco, grazie, abbiamo parlato a lungo, vorrei continuare a parlare a lungo con te di Olimpiadi, ma naturalmente ti lascio al tuo lavoro. Solo una richiesta, perché sono finite le Olimpiadi, ma tu sai che nel cuore mi sta in particolare quella manifestazione che arriva anche dopo le Olimpiadi, quindi spero, ma sono sicuro che la Gazzetta la seguirà nella maniera migliore. Stiamo parlando naturalmente della Paralimpiade, abbiamo visto quel trade union che è Oscar Pistorius fra Olimpiade e Paralimpiade. È un appuntamento che diamo tutti insieme ai lettori per aprire un'altra pagina di straordinaria, di gloria e di umanità. E grazie Franco Arturi, in particolare riferito a questo, il Sport Week di sabato prossimo, con tante pagine dedicate anche alla Paralimpiade. Grazie Franco, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. E allora noi siamo un po' in ritardo con la borsa, ci fermiamo un attimo, poi ancora su Olimpiadi, questa volta con Dario Ricci da Londra. A tempo di sport. 800 24 00 24, il nostro numero verde. Stiamo parlando di Olimpiadi, ma non solo, arrivano anche degli sms che riguardano il calcio al 349-238-6666. Uno di questi ci chiede del possibile affare Juve Lloriente, giocatore del Bilbao, un giocatore che vuole allontanarsi dalla squadra spagnola. Il Bilbao vuole 36 milioni di euro, mi sembra una cifra assolutamente fuori portata anche per la Juventus, ma io credo che tutto questo sia legato anche a quelle che possono essere anche alcune cessioni. Una di queste è quella di Matri, che interessa al Milan. Credo che a quelle cifre non si possa neanche cominciare a parlare per la Juventus, anche se pare che si stia trattando. Continuiamo però a parlare di Olimpiadi, perché ieri si è chiuso un appuntamento straordinario e lo ha vissuto intensamente da Londra Dario Ricci. Buongiorno. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Dario, dicevamo appuntamento straordinario, ci sono tanti sms che fra l'altro girerò anche a te, però cosa ti porti dietro oggi che hai la partenza dall'Inghilterra? Beh, sicuramente tante emozioni, i lampi di Bolt, Michael Phelps che nuota nell'oro. L'immagine che più mi ha colpito è la regina paracadutata nello molto divertente olimpico. Assolutamente, perché per me è stata la donna dei giochi, perché accettare questo divertissimo man è stato qualcosa di straordinario, che ha dato l'impronta a tutti i giochi, come dire, cosa importantissima, non prendiamoci tutti troppo sul serio, e se la regina è disposta a mettersi in gioco, facciamolo tutti. Veramente c'ha, secondo me ha dato la traccia a tutte queste due settimane e mezzo di sport e di spettacolo. L'immagine invece oscura è chiaramente quella di Alex Sazer, ma anche quella della cinese I, che nuota più veloce di Loxi. E il mal di testa tu l'ha pensato, certo. Sulla quale bisognerà riflettere sicuramente. Dario, abbiamo parlato con Franco Arturi anche della vicenda Schwarzer, abbiamo parlato a lungo, è arrivato anche qui, arrivano un po' di reazioni, una che dice non devi uscire dall'arma, al 349-238-6666 SMS, non deve uscire dall'arma, c'è chi ha fatto di peggio e indossa ancora la divisa. Un altro dice Eraldo, ma siamo impazziti, questo si è dopato e ci commuoviamo, fatti suoi, nessuno glielo ha chiesto, si arrangi, ma noi non ci siamo commossi per la vicenda umana, naturalmente. Ha sentito anche le sue parole, le parole di Schwarzer, Eraldo, come non commuoversi. Poi chiaramente c'è da pensare, da capire e anche da punire, perché è giusto che questo accada. Un altro SMS sempre sulla vicenda Schwarzer, perlomeno ha dato la faccia, non come i politici filomafiosi. Ma queste sono naturalmente affermazioni un po' pesanti che si nascondono dietro un presidente della nazione italiana. La verità va detta, onore al carabiniere, lo dice uno che non ci tiene alle forze del disordine. Tanti gli SMS sul caso Schwarzer, ma è sicuramente il caso che ha segnato in negativo la nostra Olimpiade. In positivo però ce ne sono stati tanti. Dario, qual è quello che più ti viene in mente, che più ti ricorderai? Ma guarda Claudio, devo dirti, ci sono due immagini che porto negli occhi. La rimonta di bronzo di Valentina Ferrari di Valentina Vezzali, certo. Di Valentina Vezzali nella finale per il terzo posto del Fioretto, perché in 40 secondi fare 4 stoccate è stato qualcosa di sovrannaturale. E poi la rimonta in semifinale di Clemente Russo con quella straordinaria terza ripresa. Beh, si sono visti in quel momento due atleti al massimo del loro livello, due interpreti perfetti delle rispettive arti. Senti, sono veramente due immagini che conserverò. Sì, bellissime. E allora ti facciamo ascoltare anche Clemente Russo. Chiedo a Fabio Cantadori di recuperare le parole proprio del nostro pugile dopo la sua medaglia d'argento. 4 anni fa piangevo, adesso voglio essere contento guardando questo pezzo d'argento, perché non è semplice tornare a fare il dilettante con un pugile come lui, che si è allenato per 4 anni solo per fare questo. Ho fatto 2 anni professionista, quindi sono contento per quello che ho fatto. Anzi, ho detto a tutti voi, ecco questa è una dichiarazione, ho detto a tutti voi che venivo qui a vincere l'oro, ci credevo, ero convinto, motivato per vincere l'oro, però sono contento dove sono arrivato, perché non era semplice nemmeno dove sono arrivato stasera. Dario, e invece l'immagine degli atleti internazionali, quella che ti porterai dietro, qual è? Beh, sicuramente il lampo dei Bolt sui 100, perché era la gara più critica per lui, atteso alla verifica dopo le sconfitte trials giamaicani da Blake, dopo i problemi fisici, forse ancora di più la semifinale dei 100, perché dopo il primo turno delle batterie avevamo visto un Bolt, almeno avevo visto ancora un Bolt piuttosto macchinoso, e secondo me non poteva essere quello il vero Bolt che poteva trionfare ancora a Londra. In semifinale d'improvviso si era rivisto quello di Pechino, e allora là si era capito che sarebbe andato a finire allo stesso modo, Claudio. Ascoltatori che hanno chiamato l'800240024, Gianluca da Arezzo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo dire rapidamente la mia opinione sul caso Sazer. Io sono un grande appassionato di sport e di atletica, sono anche giornalista, mi sono occupato di vari sport, ma insomma, al di là di questo, io credo che il talento di Alex è sempre stato fuori discussione fin da quando era un ragazzino. Ora è arrivata questa notizia e io sono tra quelli che si sono arrabbiati, si sono indignati e hanno sofferto molto soltanto nel sapere che è accaduta questa cosa. Dopodiché, però, abbiamo bisogno di capire fino in fondo cosa è successo. Rimettiamo pure in discussione anche quello che Alex ha fatto in passato. Togliamoci tutti i dubbi, ma una volta che ce li siamo tolti, cioè il sistema penale italiano è pensato per redimere anche peggiori criminali. Vogliamo per caso accanirci su un ragazzo se si dimostrasse uomo, chiamiamolo come vogliamo, insomma, che ha fatto un errore pur grave? Io non credo, puniamolo per quello che prevede la legge. Poi però, se davvero le cose stanno come ci ha raccontato, credo che la più grande impresa sarebbe provare a recuperarlo. Questo è un ragazzo che è sempre stato introverso, pieno di, come dire, di una sensibilità, insomma, particolare da esprimere, per cui io credo che ha bisogno in questo momento non di comprensione, ha bisogno, credo, di aiuto, e affondarlo ora, prima ancora, ripeto, di avere certezza su quello che ha fatto, mi sembrerebbe un delitto. Non so se... Gianluca, sono d'accordissimo con lei, guardi, non poteva esprimere meglio anche quello che è il mio pensiero. Credo che sicuramente vada punito, perché ha davvero fatto, non so se è la cosa peggiore, ma sicuramente una delle cose peggiori che si possono fare nello sport, cioè barare. Poi sull'altra, quella dello scommettere, avremo tempo di parlarne, credo, anche nei prossimi mesi, e proprio legata al calcio. Però credo che sia un ragazzo che vada assolutamente recuperato. E l'hanno detto anche molti responsabili del CONI, qui magari può confermarcelo anche Dario Ricci, lo aspettiamo a Rio 2016. Può sembrare una formazione forte in questo periodo, però io credo che sarebbe davvero una grande vittoria dello sport. Grazie Gianluca. Dario, cosa ne pensi? Ma io credo che dobbiamo procedere giorno dopo giorno su questo tema, no Claudio? E adesso veramente Rio è lontana, molto lontana per Alex. E la speranza è che dica tutto, che chiarisca tutti gli aspetti oscuri che ancora ci sono di questa vicenda. La speranza è anche che chiaramente, che come persona che ha sbagliato, violando dei regolamenti, delle leggi, paghi per questo suo errore senza che alcun intento persecutorio. Ci sono delle regole, le verranno applicate dagli organismi competenti e poi Alex potrà decidere quale sarà il suo futuro, se sarà ancora nell'atletica, eccetera eccetera. Direi che forse, ecco, le parole del presidente Arese sono state un po' avventate, ecco, dal mio punto di vista sono state un po' avventate, perché bisogna procedere giorno dopo giorno. Sì, forse dette in questo momento, però devo dire che secondo me ha dato un segnale di speranza che a me piace sempre molto. Ci fermiamo, il traffico, poi abbiamo ancora ascoltatori, 800 24 00 24, il nostro numero verde 349 238 6666, i vostri sms, traffico. A tempo di sport. Un sms che è arrivato riguardo a Dario Ricci. Un saluto Ricci, mi mancheranno le sue cronache, ho seguito le Olimpiadi quasi solo sulla vostra radio, e anche i suoi pronostici che puntualmente sbagliava. Comunque grande giornalista, saluti Stefano. Dario, ne è arrivato anche un altro, devo dire, in riferimento a qualche tuo pronostico, eccolo qui, lo scrive Paolo, dice: previsione Ricci, ok, Mangiacapria pallavolo, Cappò Russo, Cammarelle pallanuoto, sono corso a giocare, al contrario ho vinto un gruzzolo. Beh, hai fatto anche ha capito la chiave giusta, cioè fare il contrario. E invece per quanto riguarda i complimenti, è una famiglia molto numerosa e ci siamo messi d'accordo prima. No, te li meriti, anche noi abbiamo vissuto grazie alle tue parole che hanno saputo trasmettere anche tante emozioni molto bene queste Olimpiadi. Federico da Pistoia, buongiorno a tutti. Io volevo fare intanto i complimenti a voi e una piccola riflessione su quelli che sono stati le medaglie italiane, venute soprattutto da sport, come avete ben detto voi, minori. Sì. E, in particolare io sono un arciere, per cui tifo per la prima medaglia d'oro dell'Italia. E volevo fare una riflessione in quanto il CONI forse dovrebbe investire un pochino meno nel calcio e investire un pochino di più su questi che sono chiamati a torto sport minori. Un piccolo aggancio tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi: il nostro portabandiere alle Paralimpiadi sarà un arciere, insomma, Oscar Oscar De Pellegrin, sì, ha ragione. Federico ha fatto benissimo a ricordarlo, anzi grazie, perché ci permette comunque anche, fra l'altro, di riagganciarci alla Paralimpiade. Nei prossimi giorni sentiremo, avremo anche tante voci dalla Paralimpiade, sentiremo da Luca Pancalli, proprio Oscar De Pellegrin sarà nostro ospite nei prossimi giorni qui a Tempo di Sport per parlarci delle sue emozionanti Paralimpiade passate, di quello che lo aspetta portando la bandiera, quindi ha fatto benissimo a ricordarlo. Sul tema degli sport minori, io credo che non si tratta tanto di disincentivare dal calcio, questo come ha accennato poco fa anche Franco Arturi, il vice direttore della Gazzetta dello Sport che abbiamo avuto ospite all'inizio della trasmissione, non si tratta di andare contro il calcio naturalmente, però è vero che l'investimento sugli sport minori poi alla fine viene ripagato non solo da possibili medaglie alle Olimpiadi, ai mondiali, a possibili risultati, ma in particolare viene ripagato da un innalzamento, secondo me, della cultura sportiva, e quindi credo sia molto importante farlo, a cominciare naturalmente dalla scuola. Quindi grazie di questa indicazione. Federico, 800 24 0024 per chiamarci al nostro numero verde. Sono arrivati anche tanti sms che riguardano anche proprio tante altre nostri atleti e atlete che hanno fatto benissimo il loro dovere, ci hanno emozionato, qualcuna anche con un po' di sfortuna come Tania Cagnotto. Dario? Per pochi centesimi di punto Tania si è ritrovata con due quarti posti, una nella prova individuale da 3 metri trampolino, l'altro nel sincro con Francesca Dall'Apè. Per pochi centesimi anche Vanessa Ferrari ha perso questo bronzo, anzi tra l'altro infatti guarda gli sms sono arrivati proprio su di lei anche con lo stesso punteggio e per una interpretazione particolare del regolamento che del resto però era nota ben prima dei giochi. È chiaro che anche i quarti posti e i quinti posti sono importanti perché danno l'idea di un movimento e dello sport nella sua globalità. Non a caso capita spesso che tu Claudio lo sai bene, che la nazione che poi ospiti le Olimpiadi nel quadriennio successivo nell'edizione precedente faccia incetta non solo di medaglie ma soprattutto di quei posti dal sesto al quarto che rappresentano il trampolino di lancio poi per il podio che verrà, no? E quindi anche è importante, queste valutazioni sono importanti per capire cosa la nostra spedizione ha fatto nell'intera Olimpiade e quanto rappresenta effettivamente il nostro sport, e in questo senso quindi anche i quarti posti che non danno medaglia e che anzi sono la medaglia di legno hanno un valore che deve essere tenuto nella giusta considerazione. Sì, questo assolutamente. Una delle nostre atlete che non ha vinto medaglia, arriva un altro sms al 349-238-6666, ci ricorda della Sensini, scrive che con dignità ha portato avanti la sua Olimpiade senza una medaglia, è vero, però anche lei è una delle nostre atlete più rappresentative e il fatto di essere a Londra è stata già una grandissima vittoria per Alessandra Sensini. Beh, direi proprio di sì, ci siamo affidati a queste grandi signore dello sport, Valentina Vezzali, Alessandra Sensini e Josefa Idem, tutte e tre in modo diverso ma parallelo hanno segnato questa Olimpiade, due di fatto Idem e Sensini escono di scena, ma credo che solamente per cambiare veste, per cambiare ruolo, perché sarebbe un grave errore per il nostro sport fare a meno della loro esperienza, del loro contributo, della loro lucidità. Valentina rimane in Pedana fino a Rio e anche oltre, perché se parliamo della Vezzali non è possibile stabilire un limite temporale alla sua fame di vittoria, però insomma ha preannunciato, ha già definito un percorso con un secondogenita in arrivo e cioè in cantiere e poi ancora in pedana. Assolutamente sono tre donne che sono patrimonio del nostro sport e devono rimanere in diversi ruoli nel nostro sport, assolutamente. Sono arrivati tanti sms ancora sul caso Schwarzer, 349-238-6666, vi ricordo il nostro numero, anche non molto d'accordo sulle cose che abbiamo detto, per esempio questo, tutto questo buonismo sta facendo sì che in Italia i bari, i furbi, gli imbroglioni abbiano la meglio sugli onesti. Questo pubblicizzava prodotti destinati ai giovani. Radiatelo. Un altro: Alex non marcerà più, lasciatelo vivere. Un altro: il tuo buonismo fa schifo. Questo riferisco, credo, alle cose che ho detto poco fa. Non è che mi vergogno, naturalmente. Non so cosa voglia dire buonismo, francamente. Dico solo che è un ragazzo che deve, secondo me, essere recuperato, e magari essere recuperato anche nello sport, se vuole, ma prima essere punito, come è giusto che sia. E ancora un altro: se tutte le volte che ho avuto difficoltà mi fossi drogato, insomma, basta con il buonismo, un traditore, eccetera, eccetera. Tutto questo legato a Schwarzer. Naturalmente ci saranno sempre tante polemiche che lo riguarderanno. Anche sul fatto che sono arrivati degli sms sul fatto dei premi che riguardano gli azzurri, Dario, ed è vero, i premi degli azzurri sono fra i più alti. Io non lo vedo una cosa così drammatica, insomma, così da condannare, anche perché, come abbiamo visto, vengono da medaglie che davvero non ripagano in nessun'altra maniera. Dario? Ma guarda, sono tra l'altro un argomento che già alla vigilia di Giorgio avevamo affrontato in una puntata specifica di Salva Danaio, quindi insomma un'ora dedicata a questo sul tema si può recuperare in podcast, credo. Però devo dire che nazioni che hanno stabilito premi più alti ce ne sono, ma sono magari nazioni che avevano minore possibilità di medaglia, ad esempio Singapore, faccio un esempio. I premi degli azzurri saranno tassati, comunque credo che siano premi definiti in base alle disponibilità del CONI e al valore di mercato, diciamo, di queste medaglie, quindi non mi sorprenderei più di tanto, ecco, da questo punto di vista. Anche se poi è vero che magari gli statunitensi, australiani hanno premi decisamente inferiori. Però lì c'è sicuramente anche un'altra cultura sportiva. Ancora ascoltatori, Bruno da Bologna. Sì, pronto. Eccoci, buongiorno Bruno. Buongiorno a lei. Niente, ho visto che avete già parlato dei premi, però io ritengo 150.000 euro per la medaglia d'oro, lo ritengo una cosa scandalosa. Confronto, mi sembra, ai 50.000 che hanno preso gli atleti dell'Inghilterra. Ad ogni modo, ognuno si fa il conto in tasca propria. Poi, per Abete, che si è scagliato così contro il maratoneta, il marciatore, è che si resta un po' un attimo la calmata, perché vorrei sapere anche lui come è sempre stato ai vertici del CONI, con che criteri è stato messo lì a comandare questo enorme carrozzone. In più, riguardo al marciatore che si è preso che si è preso tutte queste mazziate ed ha dato indietro si è tolto l'allarma, e vorrei ricordare che ci sono magari probabilmente poliziotti che hanno commesso dei crimini ben più gravi confronto a delle terze persone, quindi sono stati condannati già da dei tribunali per omicidi vari, colposi, non colposi, dolosi, insomma sono stati condannati, e questi continuano a rimanere in servizio. Ora, perché questo qua si è preso due pasticchette per cercare di barare un po', vabbè, è grave, mandatelo fuori, però ragazzi non fuciliamolo. Questa è la mia opinione. Sì, si è dimesso lui dall'arma, Bruno. Comunque sì, io su questo sono abbastanza d'accordo. Un altro sms: 349-238-6666. E no, i nostri atleti hanno tutti uno stipendio, ci dice Beppe da Vicenza. È vero, però non si vive, non si può vivere solamente di sport minori, ce lo insegnano tutti coloro che fanno sport che sicuramente non riescono ad arrivare a dare da vivere, tranne coloro che sono poi nei gruppi militari, e in questo sicuramente c'è un grandissimo aiuto da parte dei gruppi militari agli sport minori. Dario, solo 30 secondi per una tua chiusura da Londra, perché poi ripartirai, sarai di nuovo qui fra di noi, quindi davvero grazie di tutto il lavoro che hai fatto, delle tante emozioni che ci hai fatto vivere. Troppo buono, il lavoro è stato di squadra da parte di tutti, e quello è stato la medaglia più importante che ha vinto tutta Radio 24. Dario, tornerai fra pochissimo, poi sarai qui, giusto? Ci tornerai a raccontare non solo le Olimpiadi, ma in particolare le Olimpiadi. Assolutamente sì, torneremo poi in pista, insomma, per questa settimana ti percorreremo un po' di storie dello sport, del calcio anni 80, Olimpiadi, e poi insomma con la ripartenza del campionato ritorniamo tutti squadra compatta per affrontare la nuova stagione calcistica e non solo. Grazie allora, grazie a Dario Ricci e un buon viaggio nel tuo ritorno qui a Milano. Allora chiudiamo questa puntata di A Tempo di Sport, puntata vissuta quasi interamente, anzi interamente sulle Olimpiadi, anche se avevamo voglia anche di parlare di calcio, ma ci sarà tempo, tanto tempo ancora per parlare di calcio. Grazie a Luca Cremonese in redazione, Fabio Cantadori in regia. Tempo di Sport torna domani alle 14:00.